Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringrazio tutti per la cortese attenzione e anche Zio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.